questo dibattito istituzionale così sereno è una conquista per chi come noi a volte è stato criticato proprio per avere condotto la sua azione politica nella rivendicazione continua, a volte ossessivo, di un clima che doveva cambiare. Signor Presidente, il destino e gli italiani le hanno dato più potere di quanto abbia mai avuto alcuno dei suoi predecessori. Nemmeno De Gasperi in Italia ha avuto il potere che lei ha. Ne faccia un buon uso.